buonasera, buonasera. Siamo tornati, no, ma passiamo qua al terminale, tranquillo, amico 1, perché la musica che sentiamo lì è quella che c'è al mix. Quindi noi, per avere un leggero sottofondo, abbiamo bisogno di sentirla alta, alta, alta. Ditemi se mi sentite, mi stanno sentendo. Buonasera, amico 1. Buonasera. Buonasera, buonasera, Spore, buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Spore e buonasera anche a tutti i non frequentanti e frequentanti degli spazi ciclistici bolognesi. Allora, oggi è una puntata, direi, ricca, ricca, amici ficca, o no, amico 1? Sì, sì, ricca, ricca, nonostante tutte queste restrizioni che ci stanno piombando addosso, ciclizzeremo i nostri cicli, ciclizzeremo il nostro dissenso. E infatti siamo dovuti volare su un altro pianeta. Stiamo volando sul pianeta Cumbion, dove andremo a essere ospiti dei Super Cumbia, la Liga dell'Allegria. Saremo ospiti loro finché durerà la restrizione possibile. Scenderemo soltanto a vedere se c'è una critical mass, qualcosa del genere, o una manifestazione ecologista, che ce ne sarebbe bisogno ogni giorno. Con quale abilità, amico 1, è riuscito a introdurre entrambi gli argomenti che, oltre lo sproloquione appunto serale di cui tutti ne abbiamo bisogno come il pane quotidiano, senza fare riferimenti a niente, e di oggi parleremo. Io direi, lubrifichiamo un po' tutta la situa, come si lubrificano appunto i rocchetti dei cambi delle bici dei professionisti, e con un bel brano, amico 1, e poi possiamo introdurre il primo argomento, magari un bel report della critical mass di venerdì scorso. Con cosa ci delizia, chef? Ma andiamo con l'argomento che volevamo trattare con coloro che ci ospitano, ma non sappiamo se sono reperibili al momento. Lubrifichiamola, lubrifichiamo, ingrassiamola questa situazione radiofonica. Con che brano? Io vedo già un bel Leon Gieco e di mente. Eh sì, andiamo e torniamo un'altra volta a ricordare la figura del Pocho Lepratti, assassinato dalla polizia argentina nel 2001, di cui ci ha parlato il nostro Superman dei Super Cumbia l'altra volta, dalla sua viva voce. E torneremo a chiedere ancora a loro aneddoti e altro, insomma, su questa figura che è celebratissima nella città di Rosario. Ricordiamo con moltissimi stencil raffiguranti una bicicletta o un angelo sulla bicicletta, che è uno dei suoi soprannomi, è l'angel della bicicletta. Allora andiamo ad ascoltarci questa versione che abbiamo già mandato per sbaglio, dopo avervi fatto sentire la versione originale di El Angel della bicicletta, e questa volta invece la mandiamo volontariamente, quest'altra versione. Questa è la versione di Leon Gieco e Demente, è un rocker demente, un rocker argentino, El Angel della bicicletta. Cambiamos ojos por el cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos, sacamos cuerpo, pusimos alas y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, que aquí con saña y sin alma. Dejamos ir a un ángel y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Si somos obreros, curas o médicos. ¡Bajen las armas! Que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos buenas por malas. Lo hicimos de lata. Felicidad por llanto. Ni la vida ni la muerte se rinden con sus cunas y sus cruces. Voy a cubrir tu lucha más que con flores. Voy a cuidar tu bondad más que con plegarias. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos ojos por cielo. Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpos, pusimos alas. Y ahora vemos una bicicleta alada que viaja. Por las esquinas del barrio, por calles, cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Wow, wow, wow, amico uno, che sleghe di chitarra, pedalavano, pedalavamo veloci uguale alle dita del chitarrista di questi. Leon Dzeko è demente. Mischiano due generi che di assoluto valore in Argentina, cioè la cumbia ovviamente, però forse molti non sanno che in Argentina si suona tantissimo rock, molto anche di ottima qualità. Un esempio questi chitarroni di Demente con Leon Dzeko dal loro album Un Leon Demente. Ci hanno fatto ascoltare questa versione di El Angel della bicicletta, che ricordiamo ancora una volta tragicamente scomparso per mano della polizia argentina durante i disordini del 2001 a causa di un proiettile di gomma che lo colpì alla gola e quindi morì sul colpo. Attivista nelle mense per i bambini poveri dei quartieri, dei barrios disagiati di Rosario in Argentina. E noi siamo qui ospiti dei Super Cumbia sul pianeta Cumbion, ma al momento non sono, siamo nella loro falegnameria intergalattica. Ah, sono andati a fare legna, perché sul pianeta Cumbion c'è dell'ottima legna ancora, l'essere umano non ha disboscato a fondo. E vabbè, allora andiamo avanti a far sentire un altro po' di musica sulla bici in spagnolo. Questa sera abbiamo anche questa caratteristica, questa peculiarità della trasmissione di questa sera, che ci andremo ad ascoltare tutta musica esclusivamente in spagnolo. In questo momento ci andremo a sentire un tal Tragicomic con El Chico de la Bici, che, se non sbaglio male, perché sono ormai diversi mesi che avevo selezionato questo pezzo, dovrebbe trattarsi di un trap, ma andremo a chiedere all'orecchio assolutistico del Patel, dell'amico 000, se la nostra interpretazione musicale sarà corretta o meno. Salve amico 000. Buonasera, mi piace essere chiamato, ecco, col triplo numero, un po' come alla 007, ecco. Alla James Bond. Ebbene, andiamo. Non conosce, usted conosce Tragicomic? No, non lo conosce, ma ora presterò il mio orecchio per sentire la canzone Muy Belinda. Bueno, perfecto español, el amigo 000, come avete ascoltato, ci andiamo a sentire Tragicomic, El Chico de la Bici. Siempre sonríe en momento de crisis. Llego temprano al trabajo y me río en tu cara cuando hay un atasco. Nunca he sido asesinado, pero sufro a diario más de un atentado. Tengo claro mi destino, porque mis asesinos viajan conmigo. Arigado. Comer yogur caducado. Peligroso. Quitarle la miel a un oso. No es sencillo. Vivir dentro del peligro. Mi suicidio. Dejarme gobernar. El que siempre sonríe en momento de crisis. Nunca gasto gasolina y aparco mi yegua en cualquier esquina. Tengo más vida que un gato, pero que algo me quiera que me regale un casco. Nunca me han atropellado, pero casi me como el kiosco de lado. ¡Arigado! Comer yogur caducado. ¡Peligroso! Quitarle la miel a un oso. ¡No es lo mismo! No busquen paralelismos. ¡Mi suicidio! Dejarme gobernar por el ciclismo. Filo del abismo. Ciclismo. Filo del abismo. Soy el chico de la bici. El camionero, el suyo tuvo su urbano. Eres eres novio de la muerte. Si su trato es preferente, tu destino afuera espera. Dos pedales y dos ruedas. Y sigo vivo. Y siempre al filo del ciclismo. Finiamo sempre con grandi chitarroni. Amico 000, l'orecchio suo così attento ha percepito qualche trappata? Ma a un certo punto, al minuto 2:25, di sottofondo si sente Il famoso caso di Esghere, il ghost Esghere. Amico 1, secondo me era, arrivava da qualche serie americana di queste carcerarie, che, cioè, penitenziarie che ci sono adesso. Vedi, il nero, no, il negro è del nuovo rango. No, così sembra, no, era The Black is the New Orange, cioè, introduzione sbagliata, sembrava una cosa razzista, non voleva esserlo. Ma facciamo un piccolo report, visto che siamo... Parliamo di Critical Mass, esatto. Abbiamo con noi un grande esponente, di cui chiameremo Amico 2, che ci può introdurre un po' il suo punto di vista sulla Critical Mass. È un grande onore per noi avere questa guest, e direttamente da Napoli. Da Napoli abbiamo Amico 2. Amico 2, parlaci un po' della tua visione della Critical Mass. Beh, bisogna dire che la Critical Mass qua a Bologna è andata alla grande, cioè, diciamo che l'ultima di febbraio è stato un momento di rinascita, cioè vedere tutte quelle persone riprendere a pedalare insieme e occupare la strada in un certo modo è stato un bel messaggio. Che posso dire una cosa? So che mi è arrivato, cioè, ci è arrivato a noi bolognesi, ci è arrivato un appunto, insomma, che dicono che seguiamo un po' troppo le leggi stradali e dovremmo occupare tutte e due i sensi di marcia. Beh, già occupando le tre carreggiate siamo a buon punto. Ci vuole il numero di persone, come era venerdì scorso, e la massa prende lo spazio delle macchine e dimostriamo agli automobilisti che la strada non è di proprietà loro, ma di chi non inquina. Cioè, precedenza a chi non inquina e poi magari anche a loro. Precedenza al più debole. Adesso ci stanno insegnando con questo Covid che dobbiamo chiudere tutto perché i più deboli rischiano, e invece per strada ancora non si vede questa cosa. No, soprattutto che chi va in bicicletta non è il più debole, ma è quello che pensa davvero alla propria salute, perché sta dimostrando che non inquina, respira all'aria aperta e fa bene. Va bene, scusa, allora, il più debole intendevo meccanicamente, nel senso che poi dopo, quando un SUV gli passa su una bici, la bici non esiste più, invece il SUV continua a esistere, maledetto a lui. E quindi, in quel senso intendevo il più quindi debole. Bisogna essere poi, sempre tanti. Poi è chiaro che chi va in bici è molto più forte di tutti gli altri, cioè più in salute, più in forma, più forte. Esattamente. Vorrei anche citare l'impresa di questo sabato, di una grande scalata ciclistica, non ho mica detto chi, non ho mica detto dove. Non si può dire né dove né chi, una grande scalata. Amico 3, come Cipollini, ha saltato la salita e l'ha portata a termine con una bici da circa 40 kg. O no, Amico 3? Questo è grazie appunto all'ecologia e alla salute che la bici ci fa. All'allenamento, perché sennò poi la pompa salta, Non della bici, non della bici. In generale, ma queste sono metafore veramente semicardiologhe. Benissimo, benissimo. Amico 1. Sono molto d'accordo con quello che ha detto Amico 2 su tutto, e anche su tutto il discorso legato all'ecologismo, eccetera. Mi sei interessato anche del tuo punto di vista. Io vorrei aggiungere che ho saputo che certi regaz che se la sentono galla, come dicono a Roma, hanno lanciato una sfida a tutti quelli che fanno freestyle in BMX, in skate, in roller, ad andare in alla prossima Critical di Bologna a mostrare i loro trick. I loro trick. Sappiamo, ci sono questi ragazzi che hanno lanciato sta sfida, è vero? Dice che se ci sono altri ragazzi che fanno bei trick in Critical. Abbiamo qua appunto con noi un noto manualista della Critical Mass. Si prospetta circa 20 km in manual. No, ho fatto qualche leva, come si dice in Trentino, qualche impennata. E niente, gran presa bene, tra l'altro con un altro ragazzo in BMX, che lui in verità era il vero quello che spingeva di più. E niente, e in generale appunto gran presa bene, tutta la Critical. Volevo fare una nota, e cioè che anche nei momenti, una nota di vita, no? Anche nei momenti di apparente sconforto, ovvero nel momento in cui una macchina ha tamponato una ruota, e quindi c'è stato un momento un po' così appunto di scoramento, di sguido, e niente, io ho impezzato una tipa, e quindi, mi è sembrato... Mi è sembrata una gran lezione di vita che è arrivata, e se non ci fosse stato, hai capito, non l'avrei conosciuta, perché passava da là, si aggirava, vabbè, insomma. E quindi, hai capito, mezzo appello. Puoi ricordare la tipa e tamponare? No, l'ho già incontrata, certo, cioè, però, insomma, metto nero su mio... Non all'ascolto, ma glielo dirò. E niente, però... Sono parole bellissime. Ecologia e amore, ragazzi, sono i basamenti della società del futuro, che sogna Amico 1, ma anche io, anche Amico 2, Amico 3, il bomber del manual, Amico 4, ma non Amico 000. Perché Amico 00 sogna prima l'amore e poi l'ecologia. Ma questa è un'altra puntata. Ne parleremo appunto nella prossima puntata. Io direi... Per incoronare le bellissime parole di Amico 3 e di Amico 4, un bel brano. Abbiamo un brano un po' amoroso, un po' così, un po' languido, Amico 1. Ma secondo me lo Smirlos dovrebbero andare bene, cumbia peruana, forse un veloce, però... L'amore può essere lento, veloce e chi che sia. Oh, casualmente c'ho un lo Smirlos proprio sul terminale, pensa te. Grande regia da parte di Amico Meno Zero qua, ancora una volta, anche cioè, la solita situazione ogni volta più disagiata che si crea la ciclabarra, figuratevi questa volta dopo il viaggio con la nave dell'equipaggio Svarielli l'accumbionaggio sul pianeta Cumbion. Allora ci andiamo a sentire una bella cumbia peruana, un gruppo storico, mi dicevano gli amici di Super Cumbia, lo Smirlos. Ci andiamo a sentire la Bici Bici Bicicleta, e la dedichiamo ad Amico 4. Questa è per te, Amico 4. Bye. Anche tranciato dal mix della musica, sono veramente un estimatore della musica, chiedo scusa, chiedo venia a tutti i radioascoltatori, ma continuiamo con i nostri appelli massonici, non ci piace, critical massici, meglio criticone, perché agganciandoci appunto al bellissimo racconto di Amico 4 che ci ha fatto sognare attraverso i trick e anche attraverso altri racconti, vogliamo fare un annuncio. Ah giusto, vuoi leggere il messaggio? Scusa, il messaggio che hanno scritto gli autori, questi Los Mirlos, sotto al video del loro pezzo, e dice in spagnolo, ma si può tradurre come: in questi tempi difficili siamo felici di apportare con la nostra musica, mi è sparita purtroppo la... Ecco, condividere con la nostra musica questa canzone che ci permette di raccomandare momenti speciali con un messaggio positivo che porta alla riflessione dei benefici di usare la bicicletta per noi e per il pianeta. Questo ci dicono Los Mirlos, e quindi ci fanno riallacciare ancora una volta al discorso della critical mass, che è contro ogni smog da veicoli. E questo è il primo messaggio che vuole portare la critical mass. Esatto, quindi l'appello che lanciamo questa sera, non solo questa sera, lo lanciamo questa sera perché stiamo parlando appunto di questo, è venite se siete tutti, venite, e ovvio, anche se siete dei gran tricconi, come si suol dire, cioè voi che avete il trick nella gamba, avrete tutto lo spazio per i vostri migliori trick o per inventarvene di nuovi. È questo che reclama la critical mass: aria più pulita e spazio per i veicoli non inquinanti di tutti i tipi. In America sono più evoluti riguardo questo punto di vista delle critical mass. Esistono delle critical mass specifiche di skate, ma in Italia purtroppo non se ne parla, quindi già è tanto fare delle critical mass generiche, quindi skaters, vi sta stretta la città, non vi fanno andare sui marciapiedi, le critical mass sono il posto che fanno per voi. Carrelli elevatori, muletti, taglia erba, ciclette con le ruote, tutti, pedalò, esatto, vogliamo la prima critical mass mondiale di mezzi anfibi e pedalò. E bene, io direi che queste bellissime parole hanno bisogno comunque di un sottofondo musicale, di un'incoronazione musicale, e Amico 1 sta già selectando nel terminale in Da Ubuntu il prossimo brano che apre un po', diciamo, che fa un po' da anticipatore lo sproloquio che ci sarà dopo, che verterà su cosa, amico uno? Lo sproloquio sulla famosa ciclabile di Porta Saragozza. Zzz, ragazzi, già la situazione si è scaldata, basta dire ciclabile di Porta Saragozza che diventa tutto molto piccante e peperino. Quindi per peperinarci un pochino possiamo... Non abbiamo, dici? Ma già... ah, abbiamo trovato l'altra, benissimo, i pianeti si stanno allineando, quindi qua... Eccola, ci andiamo ad ascoltare Mama Ladiglia, sempre in spagnolo, dall'album Coprofonia, questo pezzo si intitola Bisi Sinsiglin. È una cosa che, insomma, io vi sconsiglio, però magari qualche amante dei trick può anche adottare sistemi di questo genere. Gli Bisi Sinsiglin. Barrio es como una piti sin sillín, tus amigos son como una piti sin sillín, tu trabajo es como una piti sin sillín, y tu odio es como una piti sin sillín, tu futuro es como una piti sin sillín, te esperan otras muchas piti sin sillín, el amor será como una piti sin sillín, y tu bici no tiene sillín. Es como una pinta sin sillín, tus sobrinos son como una pinta sin sillín, tu suegra es como una pinta sin sillín, y tu padre es como una pinta sin sillín, tus recuerdos son como una pinta sin sillín, sin sillín, tu infancia fue como una pinta sin sillín, te compró tu abuelo una pinta sin sillín, tu primera pinta sin sillín. Vivia perquè és de Badillo i jo evadia jo. Vivia vivía en una manía, odiaba la paz y la paz me odiaba. Vivía en una manía, la paz me odiaba y odiaba la paz. Vivía porque esto vadillo y yo evadía, evadía yo. Se trincharaban en el trastero, 100.000 zulus enlazados alucinan con una luz azulada. 15 cosacos castizos, hijos en camisas, casa por casa, postrados en un camastro, mascaban mucosa, dos moscovitas. Abelino con vino conmigo en la con vino con vida bien. Un clon de Kevin Klein, la cava la calva de Calvin Klein. Vivía Marqués de Vanillo y yo evadía, evadía yo. ¡Qué gusto! Complimenti amico uno, veramente bel brano, non so perché, poi magari viaggio mio, mi ricordavano un po' i NoFX un po' spagnoli questi, mamma la dilla, ma forse è un mio viaggio del momento. Mi sembrano dei nipoti di Frank Zappa, dei nomi, no, se vogliamo prendere qualcosa di più moderno. Vedi, è proprio lo stesso punto di vista, forse hai più ragione di te però. È interessante vedere questi punti di vista molto differenti su questi argomenti così labili. Forse sai cosa, mi sono fatto leggermente trarre in inganno dall'immagine che sta vedendo proprio davanti a me del Los Conciertos de Radio 3, che lui mi ricorda un po' Fat Mike dei NoFX, magari questo è la cosa che mi ha tratto in inganno. Ma vabbè, basta inganni, ora solo verità con lo sproloquio dell'amico 1, che è atteso, quotidiano, serale, quindi siamo rilassati e ci incazziamo comunque. Ho detto io cazzo questa sera, quindi tu non puoi dire parolacce, abbiamo già esaurito le parolacce per la serata. È vietata la... Ah, ecco, la è consentita la blasfemia, però vabbè, insomma, ci fa per dire. Lo sproloquio era stato lanciato tanto un bel po' di puntate fa da questo, l'argomento dello sproloquio di oggi, dall'amico meno zero, ed è, devo dire che è assolutamente interessante, una volta constatato da vicino questa famosissima nuova ciclabile, nuova ormai ciclabile, insomma, di via Saragozza, questa ignobile striscia per terra, infame striscia per terra tratteggiata, infame, con un simulacro di bici disegnato sopra, un orrido avatar che simulacro, infame simulacro, infame simulacro sembra, e che soprattutto viene addirittura interrotta, questo ho notato con orrore, interrotta in prossimità delle fermate dell'autobus. Quindi che cosa ha deciso la Polizia Municipale di Bologna, perché penso che siano loro gli artefici della segnaletica orizzontale nel caso, oltre che di quella verticale. Ha deciso che se tu hai la bici, oltre che stare in quella striscia infame, con l'infame simulacro, poi diventa, va anche in mezzo, non solo si ferma le ferme degli altri, ma poi inizia a girare in mezzo alla strada proprio. Cioè, quasi in prossimità di Villa Spada diventa in mezzo alla strada, per rischio di essere falciata da destra a sinistra ovunque. però il leitmotiv nuovo di questa ciclabile è che tu ti fermi dietro la fermata dell'autobus, perché è così, l'immobilità insostenibile è questo. Ho saputo che abbiamo anche un ministero adesso, abbiamo un ministero dell'immobilità insostenibile. Ah beh, sì, è vero, nel nuovo governo quindi avremo da sprologuare, insomma. Fatto questo governo che si parlava lassù, ma dobbiamo far incassare Gege, scusa, amico zero, facciamo un bel ministero dell'immobilità, così Gege avrà veramente sproloqui. Ciao. E allora, amico zero, abbiamo della musica incazzata da mandare. Ho ridetto cazzo per bacco. Non riuscito a tenermi su toni tranquilli, neanche la blasfemia è partita. Comunque ringraziamo il vescovo anche per la ciclabile di via Saragozza, che siamo sicuri che insomma il suo zampino c'è. Se insomma avesse dei fedeli più ciclabili pure lui da mandare sotto il portico, là di fianco al portico, in condizioni più ragionevoli, lo apprezzeremmo, ecco. Se... quindi abbiamo un appello, vogliamo la Madonna di San Luca sul Risciò, il prossimo, vogliamo vederli fare le orfanelle col Risciò e la Madonna di San Luca sopra. Questo farebbe quietare un po' il nostro amico zero. I buoi, come la facevano una volta, no? Oppure in spalla i veri fedeli che soffrivano, così. Io voglio lanciare una sfida, che si parlava di trick, di manual, di altre cose, e amico 4 so che apprezzerebbe, fedeli su tandem con Madonna di San Luca in spalla, su per le orfanelle. Questo, penso che la Red Bull e Netflix sarebbero d'accordo con lo sponsorizzare questa rumenta qua. Comunque... per una volta non dico niente che hai detto questa marca. Ma ho detto rumenta subito dopo, giusto perché ho capito. Comunque sì, una sfida di tandem di fedeli che vanno a San Luca in tandem. Sì, Red Bull cioè già là con il suo elicottero per fare le riprese. La telecamerina, non farò il nome, inizia per G, non sulla fronte dei fedeli ma sulla fronte della Madonna. Ma vabbè, andiamo avanti, abbiamo sprolocchiato anche abbastanza e mandiamo un brano, che dici, per poi concludere con l'intervista ai Cumbieros, che sono là tornati con del bottino. Hanno trafugato un'astronave nemica, se non sbaglio, e adesso ci impianteranno su altri pezzi di astronave. Stiamo vedendo là, oltre a un'astronave intera funzionante. Siamo quasi uno Space Invader. Sì, sono anche amici degli Space Invaders, i Super Cumbia, sì, siamo tutti amici, è una rete solidale. Sono tornati, hanno trafugato una cabina di comando di un incrociatore delle milizie dell'impero, mi pare. Probabilmente l'impero. L'impero del male doveva. L'impero del male, quindi in attesa appunto che si riposi un attimo dall'ardua avventura che hanno avuto poc'anzi, mandiamo... Ci abbiamo Felipe Valladares con Bicicleta, che ha solo il titolo in spagnolo, ma anche il titolo sulla bicicleta. E poi i suoni lo possono ricordare in qualche modo, ma non sarà una bicicletta molto lenta, se la ricorderanno. Felipe Valladares, Bicicleta. con la miglior disponibile perché è pericoloso. Un scooter mi ha preso anche il parafango, anche se è di plastica, e non me ne frega niente, però non sono stato l'unico. Vabbè, insomma, dai, bisogna stare attenti, e pure in critica. Poi a volte si va piano, quando si va piano è... No, ma è pure pericoloso, cioè, è piano in gruppo. E lo stesso è pure piano in mezzo al traffico. E, insomma, le nostre strade sono un po' una giungla, no? Mamma mia, il Sofocle! Abbiamo Sofocle della Critical Mass qua con noi. E altri, appunto, filosofi della cumbia in questo caso sono appena, appunto, come diciamo poc'anzi, tornati qui nel covo della navicella dopo aver preso la cabina madre di un incrociatore. Ma prima amico 000 ci tiene, scusate, amico 00 è appena uscito e c'è Tommaso il picantone. Ai ai ai, sono qui mero. Mamma mia, il guiro del Rosario. Molto bene, dopo questo momento noi chiamiamo alla cabina di comando gli Hombres. Hombres. Chico. Noi quiero de hablar con il padrone di casa, il falegname piccante. Ai ai ai ai. Ai, c'è il cumbiero. Ai ai ai, arguiro. Ai. Me gusta mucho el mezcal. Ai ai ai ai, piccante, vizioso. Allora, abbiamo qua. Sta arrivando il. Non lo so quando si parla. Prezioso, lezioso. Prezioso sì, esiste. Fastioso, no, fastioso non si dice. Perigroso, perignoso. Il guiro più baffuto e piccantissimo. Abbiamo il guiro rasta. Ai, ai, ai, ai. Un applauso per il falegname in sincope. Allora, a lei. Avete recuperato un'astronave nemica completamente funzionante dell'impero del male. Abbiamo saputo stasera. Buongiorno, buonasera a tutti. Effettivamente, carissimo GG, siamo appena arrivati con un recupero spaziale, proprio in un viaggio nel tempo verso la quarta dimensione. Siamo riusciti ad arrivare agli anni 80, fine degli anni 80, dove grazie alla smaterializzazione che stiamo praticando proprio qui con i scientifici di Officina, abbiamo riuscito a portare di questa data lontana nel tempo un cabinet, un videogioco proprio qui, signore e signori, adesso a camera d'aria, proprio nelle serate della Ciclofficina prossimamente e dopo tutto questo casè. Lei, signora, potrà trovare qui, si potrà trovare come si trovava in quella epoca, capito? Quindi propriamente è per, a modo di un atto psicomagico, arrivare qui e guarire tutti questi trauma di non avere finito quello gioco in quel momento. Adesso lei ha una seconda opportunità, signora, quindi Pac-Man, sia Tetris, sia Street Fighter, lo che a lei le ha piaciuto in quel momento, si potrà rivedere con questo conflitto non risolto. Tutto ciò. Questo è parlare. Qua. Ma in verità noi vogliamo parlare ben di altro. Anche gli altri. Vabbè. Ma qua, come avete sentito, sul pianeta Cumbion qua si recupera di tutto. Ci siamo trasferiti integralmente qua finché non ci libererete. Ci potete trovare solo sul pianeta Cumbion. E basta, non vi possiamo dire nient'altro. Quindi vi lasciamo, che facciamo? Beh, un egregio epilogo direi, serio, politico, cioè, che dire? Quindi recuperate, riusate, com'era la terza R? R, riciclate, bravo. Bene, quindi salutiamo tutti e tutte, sia i radioascoltatori che le radioascoltatrici che i qui presenti, con una sigla unplugged e un pezzo, mandiamo il pezzo, no volvimos saper di Super Cumbia e la Liga dell'Allegria. Super picanti, quindi un ciclo barrino, tutti insieme in ciclo barra. Bombi boom, ciclo barra, bombi boom, ciclo barra, ciclo barra, barra boom, ciclo barra, ya na na, ciclo barra, ciclo barra. Nos volvimos a ver con la mano caliente. Nos volvimos a ver la mirada presente y la cara brillando con todos los dientes, contento de ver. Cuánta novela vieja, es conveniente que navegue yo en el mar. Es conveniente que se aprenda un poco de su calma. Ojo la hora, la hora, la cumbia. Aquí estoy yo conmigo, me abrazo y me hago mimo, porque con este barco yo quiero llegar bien. Nos volvimos a ver con la mano caliente. Nos volvimos a ver la mirada presente y la cara. Con todos los dientes, contento de ver. los hermanos que no los puedo contar. En el monte entra la sierra, en Centeno y Totora, cada cual con su trabajo, con su gurice, cada cual.